100.000 violoncelli stan suonando per portare un po' d'amore nel mio cuore. Mi raggiunge la sera e nell'aria c'è già un sapore di te. Sì, di te. L'amore non respira, se adesso non respiri tu. L'amore non si muove, se adesso non ti muovi tu. Se adesso non ti muovi tu. 100.000 sentimenti sto scoprendo. È più grande di un paese questo cuore, più vicina che mai. Sto sentendo che tu la mia porta aprirai. Sì, aprirai. Vicina che mai, sto sentendo che tu la mia porta aprirai, sì, aprirai. L'amore non respira, se adesso non respiri tu. L'amore non si muove, adesso non ti muovi tu. 100.000 violoncelli stanno suonando per portare un po' d'amore nel mio cuore. Mi raggiunge la sera e nell'aria c'è già un sapore di te. Sì, di te.